24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. La Commissione europea punta ad introdurre la Tobin Tax in tutti i 27 paesi dell'Unione. Oggi l'incontro a Berlino tra Angela Merkel e Mario Monti. I negoziatori tedeschi cercano un accordo. Se da un lato l'incontro franco-tedesco ha aperto nuove prospettive per quanto riguarda la necessità di insistere anche sulla crescita, e su questo la Merkel è stata molto precisa, dall'altro la delegazione tedesca che sta negoziando il cosiddetto Fiscal Compact a Bruxelles ha fatto stato della necessità che i paesi più indebitati dovranno cominciare subito a ridurre la loro esposizione e non fra 3 anni come previsto fino adesso. L'incontro di Berlino tra Monti e la Merkel rientra in un grande giro diplomatico europeo che si concluderà il 30 gennaio con il vertice straordinario a Bruxelles. Il 20 a Roma il Premier Monti ospiterà una trilaterale con Merkel e Sarkozy in vista anche dell'Eurogruppo del 23. Per il 1 marzo è prevista la firma del nuovo trattato, il Fiscal Compact, che dovrà prevedere norme più rigide per la disciplina di bilancio, ma una accelerazione del negoziato non preoccupa più di tanto l'Italia. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Intanto un analista dell'agenzia Fitch ha parlato di significativa possibilità di un taglio al rating italiano e deplora la mancanza di una rete di protezione sul rendimento dei titoli di Stato. L'Italia però non andrebbe incontro ad una ristrutturazione del debito, a rischio taglio anche altri paesi, ma non la Francia. Segno più intanto per i listini del vecchio continente. Le borse europee hanno recuperato terreno dopo 4 sedute di flessione, grazie anche ai primi conti trimestrali positivi pubblicati in Europa e Stati Uniti. Milano reduce da un calo di quasi l'8% dalla chiusura del 3 gennaio, ha segnato una crescita del 3% circa, spinta dal balzo delle banche. Unicredit ha guadagnato il 6% nel secondo giorno dell'aumento di capitale da 7,5 miliardi dopo una perdita del 45% negli ultimi 4 giorni. I diritti sono volati dell'80,85% e gli scambi sono stati pari al 12% del capitale. Col balzo di oggi la capitalizzazione complessiva della società in borsa sale così a 6,3 miliardi di euro. Sempre nel settore bancario il titolo migliore sul FTSE MIB è stato BPR più 7,9% nel giorno della nomina del nuovo amministratore delegato Luigi Odorici, mentre ha mostrato ancora una performance debole MPS più 0,25% sui timori del mercato per un possibile aumento di capitale. Bene il comparto del lusso grazie ai risultati di Swatch, che ha superato per la prima volta i 7 miliardi di franchi svizzeri di giro d'affari. Salvatore Ferragamo a Milano e Tozza hanno guadagnato oltre il 5%. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia e la Spagna devono riformare il mercato del lavoro per aumentarne l'efficienza. È quanto ha dichiarato nel corso di un seminario al Parlamento europeo Olli Rehn, commissario per affari economici e monetari, oltre che vicepresidente della Commissione europea. Nella UE è arrivato il tempo di una maggiore integrazione economica, ha detto, ma gli eurobond necessitano di regole sulla governance solide come rocce. Riguardo al ruolo della BCE, Rehn ha sottolineato come l'istituzione guidata da Mario Draghi stia aiutando a stabilizzare il sistema bancario. L'Ungheria necessita di un salvaggio da parte del Fondo Monetario Internazionale entro la prima metà dell'anno. Lo ha detto Paul Rockins, responsabile dei rating sovrani per le economie europee emergenti di Fitch. Intanto si è dimesso un fedelissimo del Premier dal suo incarico di capo dell'autorità di sorveglianza sui conti pubblici. Benzina alle stelle, Fiorino in discesa, quota 320 per un euro, prezzi in fibrillazione nei grandi magazzini, ungheresi in attesa, spaventati dai segnali che arrivano dall'Europa e dagli Stati Uniti, dove il capo negoziatore del governo Orban, Tamás Pellegi, prepara l'incontro con il capo dell'FMI, Christine Lagarde, per ottenere un prestito da 20 miliardi e scongiurare il default. Dopo l'apertura di domenica scorsa parla anche il ministro degli esteri, János Martonyi, che dichiara la disponibilità del governo a mettere mano alle leggi più controverse, quelle che hanno messo in rotta di collisione il governo Magiaro e la Commissione europea. Un ammorbidimento quasi plateale che arriva al termine di una giornata che ha visto le dimissioni del capo dell'autorità di sorveglianza sui conti pubblici, Szymon Gyarai, già ministro delle finanze del primo governo Orban nel 98, poi a capo della banca centrale e poi critico fino alle dimissioni rispetto alle misure economiche che aveva detto destabilizzano gli investitori e riducono il margine di manovra di Budapest. nella capitale magiara, sempre bellissima tra una nevicata e il sole, intanto alla gente non resta che attendere, sperando, come ci dice una signora elegante, che a pagare il conto della lite non siano, come sempre, lavoratori e pensionati. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Budapest. Una sentenza rivoluzionaria, quella arrivata dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, sulla base di un ricorso presentato da 18 cittadini di Somma Vesuviana, ha riconosciuto che lo Stato italiano, a partire dal 1994, non è stato capace di gestire adeguatamente l'emergenza rifiuti in Campania, violando la salvaguardia della vita privata e familiare. Lo Stato, in sostanza, dice la Corte di Strasburgo, non può costringere i suoi abitanti a vivere tra i rifiuti e, più in generale, in condizioni inidonee. Una sentenza che ora creerà un precedente per la giustizia italiana, ma anche per tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Lo spiega al microfono di Anna Marino l'avvocato che ha seguito la causa, Enrico Di Lorenzo. È stato riconosciuto la violazione del diritto ad un'esistenza dignitosa, quindi diciamo lesione di diritto esistenziale. La condanna, loro hanno usato una formula di cui si servono spesso, la formula che il riconoscimento del diritto è già una sufficiente soddisfazione morale, per cui diventa la sentenza di condanna una forma di soddisfazione morale sufficiente. Quindi non pagherà nessun tipo di non pagheranno niente, sanzione. Però si è creato il precedente che hanno riconosciuto la lesione del diritto, quindi la giustizia degli stati, diciamo degli stati partecipanti, tra cui l'Italia, dovrà riconoscere poi questa lesione, questi danni davanti ai giudici ordinari. Questa sentenza sarà un precedente che poi dovrà aprire un contenzioso davanti alla magistratura ordinaria italiana. Voi proseguirete? Senz'altro, perché c'è questa gente che ha avuto veramente dei danni economici, si immagini gli albergatori. Quindi praticamente chiederete allo Stato italiano di eseguire questa sentenza? Di eseguire sulla base del principio affermato, diremo ai giudici ordinari di rispettare, di eseguire la sentenza che ha riconosciuto queste violazioni e di quantificare i danni. Le offerte online di credito al consumo da parte degli istituti finanziari europei non sono ancora sufficientemente trasparenti. Inoltre, il 40% dei casi, le informazioni fondamentali previste dalle direttive comunitarie vengono addirittura omesse e in Italia l'80% dei siti controllati sono risultati irregolari. È il quadro che emerge dal rapporto annuale della Commissione europea sui siti web di credito al consumo, che riflette, come ammette lo stesso esecutivo UE, un mercato delle prestazioni inadeguate verso i consumatori. Nel complesso, secondo i dati raccolti dalle autorità di 29 paesi, i 27 più Norvegia e Islanda, ben il 70% dei siti controllati richiederanno ulteriori indagini per presunte violazioni delle regole europee sulla protezione dei consumatori. Il governo tedesco intende ridurre drasticamente l'uso di antibiotici negli allevamenti e aumentare i controlli. La Germania è il primo produttore dell'Unione Europea di carne di maiale e il terzo produttore di pollame. La somministrazione di antibiotici negli allevamenti, già molto circoscritta, sarà ridotta al minimo necessario, secondo quanto annunciato dal Ministero dell'Agricoltura. In Germania, come nel resto d'Europa, è vietato l'uso di antibiotici per aumentare la crescita degli animali. E in chiusura andiamo in Francia. È stata un bluff la candidatura di Eric Cantona, l'ex star del calcio francese. Voleva in realtà sensibilizzare il mondo della politica transalpina rispetto al problema degli alloggi in Francia. Per questo, per alcune ore, ha lasciato pensare di volersi candidare al voto presidenziale del 2012, suscitando stupore ai quattro angoli dell'Europa. In una lettera dai toni dir poco ambigui, pubblicata ieri sera dal sito di Libération, il cosiddetto bad boy, cioè Eric Cantona, chiedeva ai sindaci di Francia le 500 firme che normalmente servono all'investitura presidenziale. In realtà, col passare delle ore, si è scoperto che l'ex stella del Manchester non ha nessuna intenzione di varcare la soglia dell'Eliseo. La sua è stata soltanto un'operazione mediatica che ha lo scopo di sostenere l'associazione Abbé Pierre, impegnata da 20 anni nella lotta a favore dei senza tetto e contro il caro alloggi. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.